È con noi Paola Farinetti, co-direttrice della terza edizione del Festival Attraverso, in 21 comuni nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo dal 24 agosto al 9 settembre. Paola, ben trovata. Lo Grazie, ciao. descriviamo questo festival? Volentieri. Allora, attraverso un festival che è giunto alla sua terza edizione, che come hai detto tu comprende 21 comuni e soprattutto tre, anzi quattro territori, cioè le Langhe, il Monferrato, sia quello siciliano che quello alessandrino, il Roero. E da quest'anno abbiamo puntato anche molto sull'Appennino piemontese, cioè sul versante piemontese degli Appennini, che sono in realtà poco conosciuti nella nostra stessa regione. L'idea è quella di inseguire la bellezza. Tu sai che 3 anni fa, più o meno, l'UNESCO ha dichiarato questo territorio patrimonio dell'umanità, proprio per la bellezza del paesaggio, fregandosene cose che a noi stanno tanto a cuore, tipo le divisioni amministrative, i confini, i campanili, no? Ha detto da qui a là è tutto bello. Ed effettivamente è così, è un paesaggio diverso ma uguale per armonia, bellezza, per antropizzazione consapevole, non a casaccio, e però ha delle diversità, non so, nelle Langhe ci sono più vigneti, nel Monferrato le colline si addolciscono di più e nell'Appennino siamo già in montagna. L'idea è quella di creare degli appuntamenti che nascano in armonia con i territori che li ospitano, evitando l'effetto astronave che cala dall'alto. E infatti è un lavoro lunghissimo, un lavoro che va da un anno all'altro, perché tu immaginati che per ogni di questi 21 comuni hai a che fare con una decina di persone, tra assessore, sindaco, prologo, genius loci e via dicendo, quindi è anche un attraversamento umano, non soltanto di paesaggi. Noi quest'anno abbiamo fatto un'anteprima, una sorta di primo tempo del festival tra il 27 luglio e il 9 agosto, e il 9 agosto tra l'altro abbiamo avuto un appuntamento meraviglioso che è stato l'ultimo concerto italiano della sua carriera di Joan Baez, che è avvenuto in un luogo altrettanto bello perché era il cortile dell'Agenzia di Pollenzo, là dove ha sede l'Università di Scienze Gastronomiche, ed è stata una cosa davvero molto emozionante. Adesso da domani ricominciamo, dal 24 agosto fino al 9 settembre, e gli appuntamenti sono tanti e sono vari, perché si va dallo spettacolo teatrale, penso a Happy Hour della premiata ditta Gallerano Ceresoli, coloro che inventarono la merda, uno spettacolo che ha fatto Sì, insomma sì, sì. parlare in Italia, e questo Happy Hour è in qualche modo l'ideale proseguimento, debutterà poi ufficialmente a Prato in ottobre. Ci sarà Giuseppe Cederna con Da questa parte del mare a Parodi Ligure in un'abbazia romanica meravigliosa. Ci saranno concerti, penso a Giovanni Lindo Ferretti che torna ad Alba a 20 anni da un appuntamento che fece importante dedicato a Beppe Fenoglio. Ci sarà Willy Peyote a Novello il 1º settembre, dove chiuderemo tutto il paese, e la giornata l'abbiamo proprio chiamata Un paese, un palcoscenico, e ci sarà prima un momento di ricordo della Basaglia, in cui quest'anno ricorrono i 40 anni, con Paolo Pepe che di Franco Basaglia è stato allievo, e con Giovanni Nuti che ha vissuto 15 anni con Alda Merini, che ha messo in musica le sue poesie, e poi ci sarà questo concerto di Willy Peyote come finale, ma sempre in questo paese, che è un paese ancora della zona del Barolo, nelle Langhe, ma dove c'è anche un vitigno un po' misterioso antico che è stato recuperato, che è la Nascetta, che è un vino bianco molto particolare, che si coltiva solo lì a Novello. Ci sarà una camminata notturna con l'associazione Andè, accompagnata da una degustazione di Nascetta. E via dicendo, adesso in un quarto di tutti diventa lungo e Certo. forse noioso, però c'è un sito che si chiama www.attraversofestival.it, dove c'è scritto tutto, anche una pagina Facebook vivace, dove via via vengono elencati tutti gli appuntamenti. Abbiamo un sacco di sovrapposizioni, occasioni purtroppo, perché Certo. il periodo è breve, i paesi sono tanti, però insomma senza farci concorrenza interna, speriamo. Paola, nel complesso più o meno quanti eventi culturali ci saranno? Ma una trentina direi, Ok. forse anche qualcosa di più. Ci sono anche incontri di chiacchiera, ad esempio a Nizza, Monferrato, faremo tre incontri con tre, diciamo, eccellenze, ognuna in un campo diverso. Cioè ci sarà un incontro con Oscar Farinetti, ci sarà un incontro con Ermal Meta, ma non tanto dal punto di vista della musica, cioè è quanto ci piace la storia, perché è un extracomunitario che ce l'ha fatta, è un esempio di integrazione riuscita e pensiamo che in questo periodo storico bisogna anche dare degli esempi positivi da questo punto di vista, e un incontro con Massimo Gramellini. Oppure a Casaleggio Boiro, che è un paese arroccato nel Monferrato, dove c'è un castello dove Sandro Bolchi girò I Promessi Sposi, e infatti questo castello, anche se è dell'undicesimo secolo, lo chiamano il castello dell'innominato, perché nei Promessi Sposi quella era la casa dell'innominato. Lì ci sarà un incontro col professor Alessandro Barbero, che racconterà delle cose sul Medioevo in Piemonte, con il suo modo che ha, insomma, comunicativo di raccontare la storia. Un'ultima curiosità rispetto agli orari, saranno differenti o serali? Dipende, come ti ho detto, a novella iniziamo dalle 18 e andremo avanti fino a tarda notte. Gli spettacoli di Neri Marco Re, che sono una Libarna, che è un'antica città romana, tipo Pompei, che sta vicino a Serravalle Scrivia, e l'altro a Monforte, all'Auditorium Morzoschi, saranno alle 18 con l'idea di prenderci il tramonto, no? E poi di finire con una mangiata. In alcuni casi sono alle 21, dipende insomma, secondo i luoghi. Bene, i riferimenti ce li hai dati, allora un ringraziamento e un saluto a Paola Farinetti, co-direttrice della terza edizione del Festival Attraverso, in 21 comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo dal 24 agosto al 9 settembre. In bocca al lupo. Dai, grazie a te Federico, ciao.